1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, eccoci, le 7:20, pronti a leggere i giornali. Noi siamo svegli da tempo, anche se l'alpino Bescapè ha dormito 3 ore. Io 3 ore e mezza, ti batto. Toh, come direbbe Maradona, ma siamo belli vispi e voi forse anche, se vi unite solo ora, razza di debosciati, forza, c'è da risollevare l'Italia. Allora, siamo pronti a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi parleremo alle 8:15 di scuola, torniamo su questo tema e sulla scuola, soprattutto salvata sempre più la scuola pubblica dai privati. Anche oggi i giornali raccontano di scuole che si appoggiano ai privati, a volte i privati sono i contributi proprio privati delle famiglie italiane alle quali viene chiesto di portare carta igienica, sapone e cose del genere, altre volte sono proprio aziende private che forniscono le seggiole, forniscono i banchi, forniscono i computer. È un modello che, secondo il ministro Carrozza, potrebbe essere anche un modello non disprezzabile, che proviene anche dagli Stati Uniti, magari soprattutto gli ex studenti che in maniera filantropica aiutano le scuole dove hanno studiato. È un modello giusto, secondo voi? Oppure la scuola pubblica, essendo pubblica e pagando tutte le tasse, sempre che tutti le paghino, dovrebbe sostenersi da sola come modello statale, per l'appunto? Ne parliamo alle 8:15 con ospiti. Ora andiamo a sfogliare i giornali che trovate in edicola. In questo martedì 29 ottobre, intanto i titoli. La casa è un tema che torna in primo piano, Il Sole 24 Ore, come abbiamo sentito anche nel giornale radio, casa, voucher per gli affitti e modifiche sulla nuova tassa. Queste sono le novità che Il Sole mette in prima pagina. Per Repubblica, prima casa, tornano le detrazioni. Mentre Il Messaggero, rata IMU, la carta Banca Italia, il Tesoro accelera sulla rivalutazione delle quote di Via Nazionale in mano alle banche. La vicenda Datagate, invece, per il Corriere della Sera e La Stampa è l'apertura. Il dossier sulla guerra delle spie, così apre il Corriere, l'Unione Europea denuncia, così i russi volevano intercettare i leader al G20. E lo stesso titolo sulla stampa, così i russi spiavano al G20. Obama sotto assedio e l'apertura invece di Avvenire. La politica per il giornale, brogli nelle urne del PD, la sinistra trucca le primarie, questo è il titolo di prima pagina del giornale, mentre Libero, forza sorelle, e sono le sorelle Barbara e Marina Berlusconi. Il Fatto Quotidiano, ora Grillo si gioca tutto al voto e se perdo mollo. Questa è l'apertura, mentre l'Unità anche su Grillo, assalto al Quirinale, e così il Manifesto, discesa libera, e c'è la foto di Beppe Grillo, gli attacchi al capo dello Stato in prima pagina. Ma io voglio rispolverare il vecchio mantra che da un po' non usavo: le mani sul volante, le mani sul volante se siete alla guida, e tazzine di caffè bollente da appoggiare. Anche tu, Miriam Lucchetti, che bevi il caffè, appoggialo, perché in questo momento rischi veramente di bruciarti l'appoggiato. E quindi sul Quotidiano Nazionale, edizione del giorno, attenzione cari ascoltatori, perché ci sono ben 2 pagine e si è scoperto colui che avrebbe chiesto il rimborso alla Regione Emilia Romagna per essere andato al cesso pubblico 50 centesimi. Per la verità i rimborsi sono 2, quindi 2 scontrini da 50 centesimi. 2 pagine del giorno dedicate all'ultima vicenda dell'Emilia Romagna, pagina 8 e 9. Prima di svelare l'identità di questo consigliere regionale, c'è un articolo: abbuffate da 200 euro a testa, un gioiello da Tiffany, le carte di credito erano dei consiglieri monari del PD e villani del Popolo della Libertà, racconta Gilberto Dondi. Come nel capolavoro di Marco Ferreri, la grande abbuffata, le cene erano proprio questa magnare, no? Quando si dice la politica magna, questa qui. Le ostriche, ristorante romano, prezzo 300 euro per 2 coperti. Questa è una cena contestata dalla Guardia di Finanza ai consiglieri dell'Emilia Romagna del PD. E poi sempre nella stessa capitale, 424 euro per una cena a 2 dal Rosetta, questo altro ristorante, oppure i pasti nel famoso Le Calandre, nel Padovano, i conti dell'ordine di 340 euro per due persone o 689 per tre, ma poi c'è anche un gioiello Tiffany, 480 euro, Natale 2010, beh, un regalo di Natale, lo chiese come capogruppo con la carta di credito l'ex capogruppo Villani del Popolo della Libertà, ma era la sua carta di credito, non è detto che il regalo fosse per lui. Ma poi c'è appunto il capolavoro, pagina 8, intervista a Thomas Casadei, Partito Democratico, che stupito dice: io? No, scusate, ma se è così è un errore. Sono finiti nei rimborsi per sbaglio. Due richieste di scontrini, 50 centesimi per uso di bagno pubblico. Thomas Casadei, il rimborso da 50 centesimi per il WC? Scusate, un errore. Non so come sia possibile. Domani verificherò. Tutta un'intervista così. Non è possibile. Verificherò. Saranno sicuramente finiti dentro per sbaglio. Non mi arricchisco certo con un euro, e questo è vero, ma soprattutto il capolavoro, se è così, li restituisco. Ma a chi devi restituire, caro Casadei? A chi devi restituire un euro? Vai lì a qualcuno in piazza a Bologna a dire: ecco qua, la comunità, restituisco un euro per l'utilizzo due volte del bagno pubblico? Tanto che Gilberto Dondi gli chiede: senta, non un grande sforzo restituire un euro, ma ripeto, l'unica spiegazione possibile si sia trattata di una svista dovuta alla distrazione. Mica mi arricchisco con un euro. No, infatti non ci si arricchisce, ma la figura da WC rimane. Vabbè, questo per quel che riguarda la regione Emilia-Romagna, mentre voglio saltare in Veneto, dove racconta su Libero Alessandro Gonzato, il vescovo di Verona, Giuseppe Zenti, ha fatto l'omelia, già definita l'omelia antitasse del vescovo. Non pagate se non ce la fate. Così Alessandro Gonzato, Libero, pagina 12, Monsignor Zenti agli agricoltori di Verona durante l'omelia ha detto: le istituzioni ascoltino chi è in difficoltà, si versa fino a dove si può arrivare, poi vengano a vedere com'è la situazione. Le tasse si pagano, ma secondo le proprie possibilità, ha detto il vescovo, citando peraltro la Costituzione. Se un'azienda deve chiudere per pagare le tasse, è giusto che non le paghi, le istituzioni vi devono ascoltare. E così il vescovo di Verona, Monsignor Zenti, nella giornata di ringraziamento organizzata da Coldiretti, parla agli agricoltori e lo fa dall'altare della Basilica di San Zeno, il santo patrono della città, navate stipate di gente, i fedeli che attendono l'omelia, e durante l'omelia il vescovo dice loro che non è giusto finire strangolati dalle tasse, che loro, lavoratori della terra, hanno il diritto di sopravvivere. E allora ecco qui l'appello alle istituzioni, che devono ascoltarvi quando siete in difficoltà. E beh, certo, Libero dice: non fosse per la sacralità del luogo, ma insomma Monsignor Zenti, pur mantenendo un tono pacato, ha lo sguardo determinato quando dice: le tasse bisogna pagarle, ma secondo le proprie possibilità, e quando fa questa omelia definita da Libero una omelia antitasse. Che dire, cari ascoltatori, prima di andare alla pubblicità io vi ricordo anche questo articolo di cronaca. Vabbè, ci sarebbe un pochino da sorridere per l'epilogo, non dimenticandosi che però la premessa era che si andava via da una tragedia, la vicenda della Concordia col processo. E guardate il titolo che c'è a pagina 8 riguardante il comandante Schettino, pagina 8 del Secolo XIX. Ci sarebbe da sorridere, ripeto, non fosse che è una tragedia. Quello della Concordia, Schettino si schiantò sugli scogli pure la scialuppa. Ma io l'ho letto, ho detto: no, non ci posso credere. Ebbene sì, la testimonianza di Salvatore Ursino, che 28 anni di Messina, è ufficiale in addestramento, una specie di stagista, la sera del 13 gennaio 2012 rimase in plancia di comando da Civitavecchia all'impatto sul Giglio. Per la verità Ursino dice in qualche modo che Schettino è rimasto insieme a lui, insieme ad altri, fino a quasi all'ultimo sulla nave. Ha preso una scialuppa di salvataggio poco prima che la nave che la nave si ribaltasse, e quindi secondo questa testimonianza lo stesso Ursino ha detto ha salvato e ha provveduto a salvare prima molte vite, ma poi, e poi c'è questa vicenda: Schettino ha salvato i passeggeri e poi ha detto alla scialuppa di salvataggio di lanciarsi a tutta velocità verso la costa e si è schiantato sugli scogli del Giglio. E poi è sceso e ha guardato in silenzio la Concordia. Vabbè, si schiantò sugli scogli pure la scialuppa di salvataggio con a bordo Schettino. Davvero una serata infelice, oltre che tragica. La pubblicità, rientriamo tra qualche minuto con la politica italiana, ma non solo. 24 mattino. Siamo qui allora alle 7:32 minuti, continuiamo a leggere i giornali cominciando e riprendendo dalla politica italiana, che in pratica è concentrata su tre grandi notizie sui giornali, vale a dire la giornata di Beppe Grillo, che è comparso improvvisamente al Senato facendo uno dei suoi show e ha preso un po', catalizzato l'attenzione della giornata politica di ieri, le vicende all'interno del Popolo della Libertà e poi il PD con la corsa iniziata e sempre più serrata verso l'elezione a segretario dell'8 dicembre del partito. Allora cominciamo da il Popolo della Libertà. Oggi tra l'altro è una giornata, come raccontano i giornali, abbastanza importante per la vicenda decadenza dal Senato di Silvio Berlusconi dopo la condanna definitiva, perché oggi si riunisce la giunta per il regolamento del Senato alle 15, è la giunta che deve votare se modificare il regolamento e prevedere il voto palese, perché il regolamento prevede che se lo chiedono, credo, 20 senatori, il voto sulla decadenza di qualsiasi senatore possa essere segreto. I grillini hanno chiesto una modifica al regolamento perché si voti in modo palese. Ecco qui: decadenza, spinta per il voto segreto. A metà novembre il verdetto dell'Aula. Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera, pagina 9, racconta la giornata. Oggi c'è l'ultima decisione sulla richiesta del Movimento 5 Stelle di scrutinio palese. Si racconta che due politici sono decisivi in questo voto, vale a dire Linda Lanzillotta e Karl Zeller della SVP, sono entrambi membri di questa commissione per il regolamento che ha 13 votanti oltre al presidente Grasso, e quindi 13, se sarebbero 6-6 per il voto palese e per il voto segreto, e o meglio Zeller non si capisce bene, e Linda Lanzillotta di Scelta Civica potrebbe essere l'ago della bilancia a far pendere da una parte o dall'altra. Anche per Repubblica una pagina con la firma Liana Milella, pagina 4, decadenza, il voto palese guadagna terreno. Dunque, vedete, per il Corriere c'è la spinta verso il voto segreto, mentre per Repubblica il voto palese guadagna terreno. Vabbè, diciamo che gran parte della giornata sarà dedicata a questo. L'altro tema riguardante il Popolo della Libertà è che cosa? Beh, Silvio Berlusconi le fibrillazioni all'interno del Popolo della Libertà. Le possibili divisioni. Ieri per la verità si è registrata una frenata di Alfano. Alfano frena, ma Silvio non si fida. Ora in piazza contro la decadenza. Pagina 6 di Repubblica. Beh, forse la cosa più interessante è l'intervista sull'Huffington Post che viene riproposta dal giornale praticamente quasi intera a Barbara Berlusconi, perché tutti guardano a Marina Berlusconi come possibile leader, ma parla Barbara Berlusconi. Mio padre circondato dai nemici, anche da qualche falso amico, eccolo l'affondo della terzogenita del Cavaliere, è inaccettabile che il PD governi con lui, ma vuole farlo fuori, la condanna Mediaset è infame e infamante. Parla Barbara Berlusconi, dice: io come mio padre non posso rispettare la sentenza Mediaset, perché il ribaltamento della verità, le ricordo che un altro tribunale, dice intervistata da Alessandro De Angelis, le ricordo che un altro tribunale a Roma ha giudicato gli stessi fatti e ha assolto mio padre riconoscendo per vera tutta la ricostruzione dei fatti, questo prima del tribunale di Milano. Insomma, la condanna di mio padre è una condanna infame e infamante. Chi sta cercando un atto di sottomissione, umiliazione, quasi che Silvio Berlusconi dovesse espiare la colpa di esistere, è fuori strada. Mio padre non si cospargerà la testa di cenere per dare a qualcuno la soddisfazione dello spettacolo che sostituisce la ghigliottina. Così Barbara Berlusconi, che poi riguardo alla domanda specifica, ma chi sta a fianco a suo padre? Beh, ci sono gli amici di sempre, con lui ha costruito le imprese, quelli che gli sono stati sempre a fianco, come Doris, cioè Ennio Doris, Confalonieri, Letta, immagino lo zio, insomma, del premier Letta, e poi ci sono però quelli tanti che hanno finto di sposare le sue idee politiche, ma che in realtà agivano per interessi personali, per le poltrone e per il potere. Ecco, così Barbara Berlusconi, tanto che su Libero viene preso proprio questo stralcio di intervista, pagina 3, per fare il titolo: Barbara spara sul Popolo della Libertà, poltronari. Ce l'ha dunque anche con chi sta a fianco al padre. E beh, nel retroscena di Francesco Bei su Repubblica, pagina 7, c'è un Angelino Alfano che pare abbia detto, si sia sentito dire meglio dal premier Enrico Letta: caro Angelino, è arrivato il tempo di decidersi. Insomma, questo tira e molla con Alfano che sembrava vicino alla rottura, poi ieri un riavvicinamento a dire c'è solo un leader che è Silvio Berlusconi. Eccolo qui il titolo di Repubblica: Angelino, è tempo di decidersi. Letta incalza per blindare il governo, ma il vice premier risponde: voi fatemi da sponda cambiando la manovra. Insomma, questo all'interno del Popolo della Libertà. Per quel che riguarda Beppe Grillo, invece, è uno show in piena regola. Show di Grillo in Senato, nuove offese al Colle. Se perdo, lascio, ma si vada al voto. Questo è il titolo, per esempio, di pagina 10 del Corriere. Raccontano di un Beppe Grillo che è arrivato davanti ai cronisti che lo vedono e pensano a un sosia in un primo momento. Si presenta così al Senato, meraviglia che diventa sbigottimento anche per Anna Finocchiaro, senatrice. Davanti a lei si apre l'ascensore e ecco Beppe Grillo in persona, doppio petto troppo largo, solito spirito caustico. Dobbiamo fare una legge per far scomparire il PD, subito dice Beppe Grillo alla Finocchiaro, e replica della Finocchiaro: se non ci siamo riusciti noi a far sparire i 5 Stelle. E così Grillo tra battute: se avessi incontrato Formigoni non so se sarei riuscito a salire, ricorda il Corriere che ha detto questa, ma ha detto anche quest'altra davanti alla statua di Mazzini: Mazzini vede passare tutti i giorni Giovanardi, gli viene da buttarsi giù dalla statua. Così Beppe Grillo. E poi in conferenza stampa: se non vinciamo le elezioni lascio il movimento, se cozziamo con 1 milione di italiani non sono più italiano. E ancora: siamo stati gli unici a votare contro il Porcellum, ma questi vogliono un super Porcellum, un Napolitellum. Ed ecco lì l'attacco al capo dello Stato, per il quale Beppe Grillo poi si prende strali un po' da tutti. È un presidente di parte, una persona di quasi 90 anni, furba, non saggia. Abbiamo seri problemi con quell'anziano signore che è in politica da 60 anni. Così Beppe Grillo su Giorgio Napolitano, tanto che l'Unità e il Manifesto titolano proprio in prima pagina: Grillo assalto al Quirinale per l'Unità e discesa libera. Questa è la foto di Beppe Grillo con gli attacchi al capo dello Stato. E poi invece c'è il PD. Allora, il PD, interessante l'analisi che Stefano Feltri sul Fatto Quotidiano fa nel programma economico di Matteo Renzi. Il programma col buco intorno viene chiamato, e cioè un po' l'accusa che viene fatta a Matteo Renzi da molti, cioè dire avere un contenitore vuoto, cioè fare tante proposte ma poi stringi i numeri non sono a suo favore. Per esempio il Fatto Quotidiano con Stefano Feltri mette questi 100 euro in più ai redditi bassi promessi da Renzi, ma le coperture quali sono? Tutte da trovare. 100 euro al mese in più a chi ne guadagna meno di 2000 netti, questo è il sostegno che dovrebbe arrivare dalla riduzione dell'IRPEF, l'imposta sul reddito, una promessa molto costosa però, dice il Fatto, da almeno 20 miliardi all'anno, ma si può partire con 10 miliardi per dare un beneficio immediato da 50 euro. Già, ma dove trovare questi soldi? Renzi e renziani dicono: abbatteremo la spesa pubblica. E scrive Stefano Feltri: auguri. E poi il prelievo sulle pensioni pensioni alte, per esempio l'equità previdenziale promessa da Matteo Renzi. Beh, ma questo, scrive il Fatto, è a rischio di bocciatura della Corte Costituzionale. E ancora sui conti pubblici, sulle grandi opere, sul contratto unico per i giovani, per i quali, scrive il Fatto, non c'è alcun piano. Insomma, l'accusa del Fatto Quotidiano è: le promesse di spesa sono molto costose, le coperture ancora vaghe, mancano dettagli anche sul mondo del lavoro, il programma con il buco intorno. Questo è il titolo del Fatto. E poi ci sono le grandi accuse per quel che riguarda il tesseramento. Il Giornale oggi si occupa in prima pagina del tesseramento del PD, che in vista del congresso, scrive il Giornale, è aumentato in maniera esponenziale soprattutto in alcune province. Brogli nelle urne del PD, questo è il titolo molto esplicito di prima pagina del Giornale, con anche la testimonianza di un senatore, il senatore Stefano Esposito del Partito Democratico, uno che spesso va anche controcorrente all'interno del partito, e che dice: attenzione, vediamo delle province dove vengono schedati, dove vengono iscritti persone che non c'entrano nulla. Anche per Libero, i guai della sinistra, con Enrico Paoli a pagina 7, barboni, albanesi, africani, è corsa al tesseramento del Partito Democratico. Quindi queste le tre grandi notizie di politica. Sullo sfondo c'è sempre le novità sulla legge di stabilità in discussione in Parlamento. A questo proposito voglio chiamare un uomo oggi chiamato agli straordinari, Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Mauro, buongiorno. Buongiorno, oggi firma l'editoriale di prima pagina del Sole 24 Ore, ha firmato l'editoriale del GR24, parla di casa, parla di altro, e poi caro Mauro. No, niente, e poi ti pagherò un caffè per questo spot meraviglioso. Ieri c'era l'influenza al Sole 24 Ore e Mauro Meazza ha fatto tutto, no, a parte gli scherzi. No, non è così. Però insomma c'è stata l'occasione, come dire, di intervenire su qualche cosa, specialmente per quanto riguarda la casa, che è il nostro titolo principale di oggi, che è un po' il cruccio. I costruttori dicono: attenzione, arriveranno le tasse con le nuove TRISE, fino al 72% del 72% in più. Davvero sarebbe incredibile. Questa la stima. E che cosa pensa il governo oggi, scrivete sul Sole? Sì, il governo sta pensando da una parte a un piano casa che dovrebbe risolvere le questioni delle emergenze abitative, quelle che hanno portato poi le persone in piazza a Roma, l'abbiamo visto, e dall'altra a correggere di nuovo questa nuova tassa, questo TRISE composto da TASI, TARI e quant'altro, e quindi insomma ulteriori cambiamenti. E però viene un po' il sospetto che tutto sto cambiare non porti granché, nel senso che si perda un po' di vista la strategia. Anche perché poi ci sono delle sorpresine qua e là. Oggi, sfogliando il Sole, ad esempio, Gianni Trovati si è accorto che i comuni hanno ricevuto adesso degli acconti come trasferimenti dallo Stato, però lo Stato ha detto: no, scusate, ve ne abbiamo dati troppi, ce ne dovete ridare. Che già i comuni si lamentano dei pochi codi, sì. Pochi soldi, invece. Allora si scopre, leggicchiando qua e là appunto dal lavoro di Gianni Trovati, che ci sono dei comuni come Milano e Roma che devono ridare delle somme anche importanti, ma ce la possono pure fare. Roma deve 59 milioni, ma Milano ne deve 6. Il problema è il comune di Boneglia o quello di Colico, che sono comuni, come puoi immaginare, di poco bilancio, sì. E devono restituire milioni. Sono stati anticipati dei fondi, troppi fondi. Ma perché in realtà? Perché nessuno ci ha capito più niente sulle regole di attribuzione. Insomma, questa è una beffa davvero incredibile. Magari soldi che hanno già speso i comuni, avranno messo a bilancio e invece dovranno correggere i bilanci, quindi ci sarà un effetto, perché qual è il legame con quello di cui parlavamo? Che ci sarà un effetto sull'IMU, quindi la seconda rata che appunto i proprietari di prime case non dovrebbero pagare, aspettiamo sempre una norma che lo dica. Ma gli altri pagheranno, le seconde case pagheranno, i comuni pigeranno sull'acceleratore. Allora Mauro, c'è tempo per un'altra segnalazione dal Sole oggi? Guarda, ti voglio segnalare che insieme al Sole diamo il quaderno dell'esperto risponde, domande e risposte sul lavoro e sulle pensioni, è sempre un tema, due temi per carità molto importanti. si trovano entrambe le cose, sia il lavoro che le pensioni, sempre con maggiore fatica. Quindi ci sono ovviamente un bel po' di domande da parte dei lettori. E c'è da leggere. Mattoni instabili. Chi l'avrà mai scritto questo editoriale del Sole 24 Ore in prima pagina? Di Mauro Meazza, vedo. No, non disconosce. Deve essere un parente. Grazie Mauro, mi raccomando, questo torna al campionato, dopo la pausa del weekend, ricordatelo, turno infrasettimanale, credo. Per alcuni potrebbe essere un bene, per altri vedremo. Vedremo, questo lo commenteremo solo vivendo. Grazie Mauro, ci ritroviamo domani. Io ricordo che sul tema casa, oltre al Sole 24 Ore, insomma anche è il tema per esempio del Messaggero in apertura, è pagina 3, il cuneo fiscale, la tassa sulla casa, sono proprio questi i miglioramenti a cui è pronto il governo Letta nella discussione della legge di stabilità. A proposito di governo Letta e di ministri del governo Letta, c'è un ministro Delrio che racconta oggi Libero, c'è una foto che lo mette un po' nei guai, almeno questo è il secondo Libero. Da qui ripartiamo dopo il traffico. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Allora, dicevamo, c'è questa foto, che per la verità è una foto istituzionale, di un viaggio che l'allora sindaco Delrio, oggi ministro Delrio, fece nel 2009 e venne pubblicata da Libero a Cutro, alla festa del Santissimo Crocifisso di Cutro, centro crotonese a cui il capoluogo emiliano ha dedicato anche una strada e che, racconta Libero, è sotto i riflettori dell'antimafia. Io ho letto l'articolo di Giacomo Amadori, non è che ci siano delle accuse specifiche nei confronti del ministro Delrio, che per la verità, ha scritto Libero, fu anche interrogato dall'antimafia proprio in ambito delle indagini sulla criminalità calabrese a Reggio Emilia. Comunque Delrio in processione nel paese dei boss, questo è il titolo di Libero con tanto di foto e l'articolo di Giacomo Amadori. Vabbè, dando uno sguardo di un orizzonte più ampio, e cioè internazionale, l'apertura di Corriere e Stampa oggi è dedicato al dossier Datagate. La novità è questa, che mo pure i russi ci si sono messi, pure i russi, non bastavano gli statunitensi. Allora Fiorenza Sarzanini in prima pagina del Corriere racconta che l'ultima novità è questa: l'Unione Europea all'ultimo G20 è stata scovata una vera e propria trappola del Cremlino, gadget truccati in regalo ai leader, così Putin voleva spiare l'Europa. Pagina 2 e 3 del Corriere della Sera, il 5 settembre scorso, scrive Fiorenza Sarzanini, in Russia è convocato il G20, al primo punto dell'ordine del giorno c'è la questione siriana con Stati Uniti e Francia determinati a sferrare l'attacco contro il regime di Assad, e a un certo punto che succede? Vengono consegnati alle delegazioni numerosi oggetti ricordo, tra questi alcuni gadget come chiavette USB per computer, cavi per la ricarica di telefonini cellulari. Il primo a stupirsi di questo regalo è il presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, che una volta rientrata a Bruxelles dice «questa cosa mi puzza» e incarica i responsabili della sicurezza di effettuare accertamenti su tutti i dispositivi regalati. Si decide di chiedere l'ausilio dei servizi segreti tedeschi e cosa si scopre? L'esito dell'analisi è positivo, e cioè questi regali erano idonei alla captazione clandestina dei dati di computer e telefoni cellulari. Quindi insomma ora i russi accusati di avere fatto questi doni, anche sulla stampa pagina 3 il regalo avvelenato di Putin, chiavette USB con microspie dentro, questo l'omaggio tra virgolette dei russi ai leader del G20, ma erano una trappola per intercettare. Davvero questa vicenda non pare destinata a placarsi in alcun modo. Noi come detto parleremo di scuola alle 8:15, i privati che aiutano sempre più la scuola. Oggi il giornale dedica una pagina a questo, Enza Cusmai, pagina 17, coi bollini della spesa si comprano computer e a far bingo è la scuola. L'istruzione in crisi e dunque i genitori accumulano i punti. L'ultima iniziativa è la Coop per la scuola, coi bambini che spronano le mamme a far la spesa in alcuni supermercati per avere i buoni scuola. Questa è l'ultima frontiera. In cambio ovviamente gli ipermercati hanno pubblicità casa per casa, perché i bambini dicono mamma mamma fai la spesa lì, perché se fai la spesa lì accumuli punti e buoni scuola che io poi posso utilizzare per comprarmi i libri, per comprare tutto quello quello che è il materiale che serve alla scuola. Allora, questo è un fenomeno che si sta allargando. Questo è un fenomeno che per qualcuno è un fenomeno giusto, corretto, non c'è nulla di grave laddove ci sono carenze dello Stato, per altri invece non è possibile che si debba sopperire, visto che si pagano le tasse con l'utilizzo dei privati, alle manchevolezze, alle mancanze della scuola pubblica. Vi do solo questa notizia, un'intera pagina su Libero, è una curiosità. C'è una grande foto di un qualcosa che a me, sveglio dalle 5, già comincia a stimolare l'appetito. È legato alla vicenda della morte di Kadir Nurman. E uno dice, ma di che stai raccontando? Di che stai parlando? Kadir Nurman è morto. Sapete chi è Kadir Nurman? O meglio, chi era Kadir Nurman, caro alpino Peter Bescapè? È l'inventore del kebab. L'inventore del kebab, c'è questa grande foto sul Libero del kebab, è morto l'inventore del kebab, cibo simbolo del multiculturalismo. Lo sapevate, Kadir Nurman. Vabbè, siamo al momento del premio più ambito di Radio 24 alla rassegna stampa, vale a dire la carta costa, l'articolo più inutile scovato oggi sui giornali. Vince oggi la stampa con Nadia Ferrigo, pagina 25, un'intera pagina. Io non ci volevo credere, oggi è stata una dura selezione perché ce n'erano tanti di articoli che potevano vincere, ma questa... Mi autoscatto, dunque sono. Un'intera pagina per la moda e chi non passa il tempo a farsi gli autoscatti, moda dei VIP, moda della gente comune in tutto il mondo, dilaga il fenomeno del selfie. Sapete cos'è il selfie? È che uno incontra, non so, il Papa, è successo, e si mettono in tre, Papa, aspetta, Francesco, fermo, clic! E si fanno la foto. Oppure la Merkel, clic, la foto di Obama, clic, e si fanno la foto e si fanno l'autoscatto e poi lo postano dappertutto. Ma chi se ne fotte, mi verrebbe da dire. Una pagina intera sulla stampa per raccontare questa moda. Il selfie. Adesso ci facciamo un selfie. Io, l'alpino e Miriam Lucchetti, poi lo mettiamo su Facebook. Tra poco il selfie di 24 Mattino, sul sito di Facebook. Guardatelo, intanto il giornale radio.